24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 19 minuti e 35 secondi, inizia la terza parte di 24 Mattino di questo mercoledì 12 febbraio. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno Simone, buongiorno. 3-4... Simone, cravatta rossa stamattina. Cravatta rossa. Con dei disegnini niente male. Niente male, grazie, grazie. 349-238-6666, come al solito, se volete vedere la cravatta, c'è la diretta Facebook, 349-238-6666. Vi invito a farlo. SMS, vale la pena. I messaggi su WhatsApp, grazie Maria, naturalmente per i messaggi su WhatsApp il numero lo conoscete, è l'800240024 per intervenire in diretta. Oggi parleremo, adesso faremo una chiacchierata un po' sulla politica, un punto politico, e poi affronteremo nel resto della trasmissione un tema che è il tema fondamentale se qualcuno ha a cuore questo paese e come sarà nei prossimi 30 anni, ossia il tema della natalità e di quanti figli nascono. Ci arriveremo tra un attimo, ne parleremo con i nostri ospiti e soprattutto con voi che già ci state mandando parecchi messaggi. Però Maria, vorrei aprire la giornata, con insomma questa maggioranza che trova pace. Con questa maggioranza in generale, con questa politica che non sembra accorgersi, no? Appunto del fatto che non si fanno figli, che tutto è bloccato. Non so se ci avete fatto caso, ma siamo esattamente come in un gioco dell'oca, tornati a fine agosto. A fine agosto, per non andare a votare, diciamo che soprattutto Matteo Renzi spinse per far cadere il governo con la Lega e farne uno Partito Democratico e 5 Stelle. Nessuno avrebbe creduto possibile che due partiti che si facevano la guerra in maniera sanguinosa come i 5 Stelle e PD si mettessero insieme, ma è successo. A distanza di 6 mesi, che cosa ci ritroviamo? Matteo Renzi, che a questo punto vuole far cadere di nuovo questo governo, e si dice invece farne uno con chi? Con quello che l'altra volta ha fatto cadere, cioè con Matteo Salvini. Vi ricorderete forse, no? Ieri l'abbiamo chiesto a Teresa Bellanova, ma lei lo farebbe un governo con Salvini? E Teresa Bellanova, che è politica, avveduta, ha detto io non lo farei, ma i governi li decide il capo dello Stato. Siamo di nuovo lì, tra qualche settimana ci sarà di nuovo un tentativo di spallata, diciamo che Matteo Renzi di spallate ne ha fatte qualcuna, ha fatto cadere prima Salvini e ancora prima Enrico Letta, proverà con Conte. Ma stavolta bisogna vedere che se Mattarella... Devo dire, solo due note, solo due note. Io su questa ricostruzione mi fido di te, nel senso che io non ci credo molto, però mi fido di te. Però la nota che bisogna fare è che Salvini si è fatto cadere da solo. Non è che c'è stata una spallata di Renzi. Però se non ci fosse... Lui aveva fatto un calcolo, Salvini, che non ci fosse una possibilità di un governo Partito Democratico e 5 Stelle e che quindi avrebbe ottenuto le elezioni. Ha sbagliato. E può essere che questa volta anche i calcoli di un nuovo governo vadano a infrangersi sul fatto che per Mattarella fare un terzo governicchio di nuovo molto difficile, molto difficile, sicuramente. Chissà chi ha interesse appunto davvero ad andare a votare in questo momento, forse quelli che hanno meno forse quelli che hanno meno paura sono tutto sommato Partito Democratico, l'EU, che avrebbe poi il supporto del Partito Democratico, e gli altri, perché secondo alcuni calcoli, e ne riferisce questa mattina anche Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano, secondo alcuni calcoli forse l'insieme di Partito Democratico, l'EU, Azione, per quel poco che è di Calenda, insomma, e altri che potrebbero unirsi, ovviamente più il Movimento 5 Stelle o quella parte disponibile all'alleanza col PD, forse non è detto. Per dare l'idea ai nostri ascoltatori, in realtà tu lo sai perfettamente, però per dare l'idea ai nostri ascoltatori di quanto la situazione sia confusa, ti riferisco, Maria, una voce di corridoio che mi è arrivata ieri, che Italia Viva e il PD stanno facendo il gioco del poliziotto buono e del poliziotto cattivo per far fuori Conte. Questa è un'altra, ma lo dico per dar l'idea. Lo escludo. Per dar l'idea della confusione che sta circolando intorno a tutta la questione politica. Tenderei a escluderlo, almeno il filone della segreteria Zingaretti. La butto là per dar l'idea di tutte le cose che stanno circolando in questo momento e che sono alcune più serie, alcune evanescenti, eccetera, eccetera. Per il momento è un evidente alleato del Partito Democratico e, come spesso ha detto Zingaretti, ma non solo lui, l'ha detto anche Goffredo Bettini, sarebbe perfetto a capo di un partito centrista, mettiamolo così, alle prossime elezioni. Prospettiva che non piace ovviamente per niente. No, a Renzi non piace, al PD sì. Al PD sì. Allora, veniamo al tema di questa giornata, che sono questi dati impressionanti che sono arrivati ieri dall'Istat. Non sono i primi, per carità, però... ogni volta o quasi ogni volta ci vogliamo tornare perché riteniamo che questo sia il grande problema italiano. I dati di ieri ci dicono che l'anno scorso sono nati soltanto 435.000 bambini, ma soprattutto il saldo tra i bambini che nascono e le morti è negativo, ok? 67 contro i 96 di appena 10 anni fa. E questo è un segnale che dovrebbe preoccupare tutti. Per tutta una serie di motivi, ovviamente la forza che ha il paese, ma anche naturalmente i motivi economici. Paola Di Nicola è professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Verona e ha fatto molti studi sul tema della famiglia. Di Nicola, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. E buongiorno a Marco Valerio Loprete, che è giornalista del TG1, autore con Antonio Golini, già presidente dell'Istat, del libro Italiani, poca gente, esattamente sulla crisi demografica. Marco Valerio Prete, buongiorno, eccoci qua. Allora, Maria, prima di farti partire con la domanda, se mi permetti, dato che abbiamo chiamato i nostri ascoltatori e già molti stanno intervenendo, io farei partire un paio di ascoltatori per stimolare anche il dibattito, anche le vostre voci, i vostri interventi, anche all'800 24 00 24. Via. Riguardo all'Istat dei bimbi, chi è la famiglia che mette al mondo dei bimbi che hanno già un deficit poveri prima che nascono. Buongiorno, sono una mamma single residente a Firenze con 3 bambini. La gestione di tanti figli in Italia ovviamente è difficile, ho un lavoro a tempo pieno, cerco di essere presente. I miei cugini e la mia famiglia hanno tutti un figlio solo, io sono la prima. Vista la mia esperienza è molto poco incentivante fare tanti figli in Italia, è difficile anche se è bellissimo. Grazie, buona giornata. Insomma, ha messo paura a tutti i suoi parenti. Prego Maria, vai. No, io vorrei cominciare con Marco Valerio Loprete, perché appunto l'indagine che ha portato al vostro libro, Marco, tiene conto anche di un aspetto che è molto, anche se non solo italiano, vale a dire le donne italiane negli anni 70 si sono accorte che non avrebbero mai avuto un vero supporto da parte dei loro partner, non avrebbero avuto un vero supporto da parte delle aziende, che solo oggi nel 2000 e passa hanno cominciato ad avere asili nido interni, eccetera, non avrebbero avuto supporto economico dallo Stato e hanno di fatto smesso di fare figli, scegliendo diciamo quando potevano di avere un lavoro. Questo in una sintesi brutale. Chiedo, il caso italiano è un caso particolare, come dice questa mattina sulla stampa anche il sociologo De Rita, vale a dire ci siamo ripiegati su noi stessi scegliendo di non fare sacrifici, perché figli significa fare sacrifici, e scegliendo, come dire, di continuare a vivere come i nostri genitori ci hanno aiutato a vivere, cioè bene, rinunciando appunto alla paternità o alla maternità. È un caso specifico di, mettiamola così, rinuncia anche per motivi egoistici. Sono estrema, ma quello che De Rita dice nella sua intervista è che non è la prima volta che dice. L'intervista di De Rita è molto interessante, è stato bene a segnalarla, anche noi nel nostro libro con il professor Golini parliamo anche di questo fenomeno del narcisismo, di questa concentrazione a volte eccessiva sull'io che inizia già negli anni 60 e 70. L'Italia ovviamente si inserisce in una tendenza di paesi occidentali sviluppati in cui la natalità è in calo, quindi è una tendenza comune. L'Italia però, non possiamo nascondercelo, ha il secondo posto in termini di invecchiamento e bassa natalità dopo il Giappone, quindi è sicuramente anche un caso peculiare in questa tendenza. Come hai detto te, è un fenomeno, innanzitutto ci terrei a dirlo, che inizia già negli anni 70. Noi tendiamo a parlare ancora oggi, ogni volta che escono questi dati allarmanti dell'Istat, di emergenza. Invece in Italia, prima particolarità, non siamo di fronte a un'emergenza, ma di fronte a una crisi strutturale e conclamata. Basti pensare che siamo stati il primo paese, già nel 1995, in cui camminando per strada diventava statisticamente più probabile incontrare una persona che aveva più di 65 anni di età che non una che ne avesse meno di 15 anni. Quindi, Marco, ti interrompo, perdona, solamente per questo. A questo punto, quello che ci stai dicendo, se il fenomeno è iniziato negli anni 70, come diceva anche Maria Latella, il fenomeno a questo punto è inerziale e quindi sostanzialmente inarrestabile. Sì. Allora, spero non sia inarrestabile, ma sicuramente c'è un elemento da notare ancora nei dati dell'Istat di ieri. L'Istat dice in Italia il tasso di fecondità è 1,29. Il tasso di fecondità è quello che i demografi usano per misurare il numero medio di figli per donna. Quindi in Italia il numero medio è 1,29 e, dice l'Istat, questo dato è stabile nell'ultimo anno e negli ultimi due anni. Eppure la popolazione continua a diminuire. Perché? Perché qui subentra l'inerzia di cui parlavi tu, che è il fatto che negli anni, essendo questo fenomeno di denatalità iniziato già negli anni 70, sono diminuite anche proprio le donne statisticamente in età fertile, quindi di età compresa sempre secondo gli statistici tra i 15 e i 49 anni, che possono, se lo vogliono, fare un figlio o un figlio in più. E quindi è un fenomeno che avanza come una slavina, nel senso che è sempre più difficile, perfino se l'anno prossimo dovesse aumentare questo tasso di fecondità medio, è sempre più difficile per un paese che ha intrapreso questa china di denatalità già negli anni 70, avete fatto bene a sottolinearlo, è sempre più difficile uscirne. Però si può, ovviamente, se lo spero. Livia Danielli è un'imprenditrice che dagli anni 70, con l'azienda che è stata fondata da sua madre, produce abiti per gestanti, come si diceva una volta, cioè per donne in attesa. E mi raccontava che nei decenni ha visto cambiare la sua clientela. Cioè negli anni 70-80 venivano ancora mamme, diciamo sui 28, 30, 32. Oggi la mamma che entra in un negozio della catena di Livia Danielli è spesso quarantenne, spesso aspetta due gemelli perché nascono appunto con la fecondazione assistita, ed è spesso alla prima maternità. E come giustamente dicevi tu, Marco, quando tu fai il primo figlio a 40 anni, poi è difficile che È difficile farne dopo. Allora andremo dalla professoressa Paola Di Nicola subito dopo la pausa e le chiediamo scusa per l'attesa. Intanto una risposta all'ascoltatore che chiede quanti figli abbiamo noi. Enrico da Porto Recanati: io ne ho tre. Maria una, andiamo una. In media. Andiamo in media. Ma io sono proprio una di quelle che negli anni 80 decise di farne una sola, perché sennò lavorare e avere figli era impossibile. Pausa. Mattino. Devo una risposta a Maria Antonietta che dice: tre figli perché li ha cresciuti la moglie. Amica mia, non ci siamo proprio capiti. Mia moglie ha sempre lavorato e abbiamo sempre condiviso tutto, il ruolo, il lavoro di cura, eccetera, eccetera. Guardi, lasciamo stare. Allora andiamo da Paola Di Nicola, giusto per uscire dall'ambiguità. Andiamo da Paola Di Nicola. Allora, professoressa, la prima domanda che le voglio fare è questa. Molti ascoltatori stanno ponendo l'accento sul tema, scrivendoci, sul tema del welfare, ossia cosa fa lo Stato o quali sono le strutture che ci aiutano ad avere più figli e a gestirli, un po' come ci ha mandato il messaggio l'ascoltatrice che abbiamo fatto sentire prima. Devo dire la verità, io diffido un po' da questa interpretazione, ossia dall'idea che basti quello o che quella sia la componente fondamentale per far ripartire la natalità. Lei che la famiglia l'ha studiata, che ci dice? Ma per quanto riguarda i meccanismi per far ripartire la natalità, la fecondità, in realtà ciò che può essere fatto a livello locale, a livello di servizi, è molto. Al di là delle politiche di trasferimento monetario che possono essere gli assegni, ciò di cui le famiglie hanno bisogno, a cui parlo uomo e donna con figli, sono i servizi a sostegno dei carichi familiari, soprattutto quando i bimbi sono piccoli. Nido, asilo, tempo pieno, trasporti, flessibilità nell'accesso ai servizi e anche delle agevolazioni che hanno per esempio realizzato finalmente a Bolzano e a Trento, in cui la natalità, la fecondità si è innalzata, perché effettivamente hanno fatto delle cose concrete e banali, no? Anche lo sconto, i musei, delle famiglie, però in un modo o nell'altro c'è un'intenzione politica generalizzata che va nella direzione di non penalizzare le coppie che hanno dei figli. Poi volevo dirvi anche un'altra cosa, si parlava della peculiarità del modello italiano. Beh, fino a poco tempo fa la peculiarità era data dal fatto che, pur essendo l'Italia uno dei paesi con il più basso tasso di occupazione femminile, era anche quello che aveva i tassi di fecondità più bassi, e questo perché effettivamente le donne stavano investendo nella scolarizzazione e quindi si stavano proiettando sul mercato del lavoro. Però la cosa che dobbiamo tenere presente è che di solito sono i ceti scolarizzati, quelli alti, che fanno meno figli. Adesso stiamo creando in Italia di fronte ad una situazione particolare, perché nelle regioni del nord hanno ricominciato a fare figli, coppie, ovvero donne scolarizzate, occupate, e quindi donne con una posizione, coppie, chiamiamole così, con una posizione strutturale positiva, circondate, se vogliamo, da una rete di servizi. Al sud, dove la popolazione giovanile sta praticamente emigrando ed emigra soltanto quella, per così dire, più scolarizzata, lì è cominciato il tasso di riduzione della... Non mi stupisce, professoressa, perché i figli sono anche a un certo livello di reddito, sono uno status symbol. A New York le famiglie dell'Upper East Side hanno 3 figli, 4 figli, 5 figli, perché è un po' come succedeva nelle famiglie aristocratiche, avere molti figli è un segno di abbondanza, te li puoi permettere, hai 3 nenni e tutto può procedere tranquillamente. Ma guardi, nel passato avere tanti figli... Nei ceti superiori, ma stiamo parlando... Sì, no, no, io voglio società, stare... No, ha sempre tanti figli, sì, perché è un problema di discendenza, se vogliamo. Sì, va bene, simbolica. Professoressa, io voglio stare sul fatto che al nord le famiglie, le coppie hanno più figli perché sono semplicemente più ricche. Perché una famiglia del sud in cui lavorano padre e madre e guadagnano poco, non hanno scuola al pomeriggio, quindi il bambino viene abbandonato a se stesso se non ha la rete familiare dei nonni, e questo, la diseguaglianza comincia dal pomeriggio, assenza di servizi, pochi quattrini. Certo. Ma questo è anche quello che ho detto, no? Sì. Fare figli le coppie del nord di reddito con una posizione strutturale di vantaggio, però è anche vero che sono, diciamo, delle coppie che possono puntare sulla rete di servizi privati che si pagano da soli, ma non solo privati, il più alto numero dei servizi pubblici sono al nord, questo conta. Allora professoressa, mi scusi, la interrompo perché vogliamo far sentire qualche ascoltatore, a partire dal povero Andrea dalla provincia di Varese. Buongiorno Andrea, eccoci. Buongiorno a voi. Quanti figli ha? Voi, buona mattinata. Quanti figli ha Andrea? Sono 4 figli maschi. Quattro maschi, è tosta, ragazzi. È tosta, allora... ma vi assicuro che è una vita piena di entusiasmo, di emozioni, di calore, di unicità di questi ragazzi che sono cresciuti non nell'agio, ma nel sacrificio quotidiano dei genitori. Per cui è sicuramente una testimonianza che volevo fare, perché siamo immersi nelle negatività, negli eventi, negli ultimi 30 anni ne abbiamo viste di ogni, ma non bisogna arrendersi, guardiamo oltre, guardiamo al futuro di questo mondo che ha bisogno di ragazzi e di famiglie che credano nella vita, si mettano da parte gli egoismi, pensare a se stessi, eccetera, per donare, per sacrificare qualcosa di nostro da dare ai nostri figli. Credo che sia un messaggio di positività che non può essere condizionato da tutto ciò che ci circonda. lasciamo da parte i razionalismi e lasciamoci guidare dalle emozioni che molto spesso migliorano il mondo. Come una bella canzone di Lucio Dalla, no? Futura. Allora, Alfredo da Roma, buongiorno. Buongiorno Maria, prego. Buongiorno Simone, è sempre un piacere parlare con voi. Allora, sentendo ultimamente questo ascoltatore di paese che ha 4 figli, complimenti, io ne ho 3, vorrei dirgli che le emozioni non danno da mangiare ai figli. Sono molto d'accordo con Maria e con i vostri ultimi interlocutori molto preparati, che purtroppo in questo paese, se vuoi avere dei figli e vuoi stare in una certa tranquillità, devi avere un potere economico che te lo permette. E quindi già parecchio tempo fa un mio dirigente mi disse: se vuoi fare figli qui devi poi poterli mantenere, quindi ci vogliono i soldi, punto e basta. Non c'è via di mezzo in questo paese. Se non riusciamo a capire questo, a mettere in campo delle funzioni a livello proprio di welfare importanti, non piccoli incentivi che non servono a niente, i figli non si faranno più e andremo sempre peggio a livello di invecchiamento. Io questo lo penso tranquillamente. Vi racconto una cosa velocissima. Una mia collega di azienda ha avuto 2 bambini, uno attaccato all'altro. Il secondo bambino che ha avuto in azienda, appena rientrata, l'hanno trasferita a Milano. Questo è stato il, come dire, l'aiuto. Beh, ma c'è un film, Figli, con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, che sta andando nelle sale da qualche settimana, che racconta il dramma del secondo figlio. Cioè c'è una battuta tra lei, Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, lei che gli dice: ti devo dire una cosa, e lui: hai un altro? E lei: no, peggio, aspetto il secondo figlio. Sì. Perché confermo che il secondo è... Tantissime donne lasciano il posto di lavoro. È tantissimo. Marco Valerio Loprete, per tornare anche alle cose che si dicevano prima, c'è sempre la citatissima, lasciamo perdere i paesi del nord, c'è sempre la citatissima Francia. Lì una coppia con 2 figli e un reddito di 25.000 euro l'anno non paga assolutamente le tasse. Nella vostra analisi, nel libro che avete firmato appunto a 4 mani, siete arrivati a darvi una risposta del perché dagli anni 60 ad oggi, pur avendo un esempio così chiaro come la Francia vicino a noi, i vari governi italiani che si sono succeduti, da quelli della Democrazia Cristiana a quelli di centrosinistra successivi, hanno scientemente scelto di non far crescere la demografia, perché quando tu dai 100 euro di qua, 50 euro di là, non fai asili, non rendi proprio diverso il concetto di donna che lavora e che fa figli e che è normale, di fatto non aiuti la demografia. Vi siete dati una risposta? Sì, diciamo, ci abbiamo provato a darci una risposta. Sicuramente ci sono ragioni culturali. Citavi il caso della Francia, dove c'è una politica strutturata che va avanti anche lì dal secondo dopoguerra a favore della famiglia, per ragioni storiche, il conflitto con la Prussia prima e con la Germania poi, e l'elemento centrale della popolazione che scendeva in Francia già nell'Ottocento. In Italia c'è stato il problema opposto. All'inizio la denatalità non era sicuramente percepita come un problema anche nell'immediato dopoguerra. Ci sono ragioni storiche, nel senso che in Italia c'è la tradizione, c'è un'eredità che è quella del fascismo, che ha associato alle politiche demografiche nella mente di tanti italiani, in particolare della sua classe dirigente, un regime autoritario, cosa che in Francia non è accaduta, perché le politiche per la demografia erano politiche che erano impugnate anche dai liberali e da una parte della sinistra, parliamo sempre della Francia. Ci sono ragioni nel fatto che a un certo punto, negli anni 60 e 70 in particolare, una versione un po' catastrofista dell'ecologismo impegnò tutto il dibattito sul fatto che eravamo troppi sul pianeta, senza guardarsi attorno a quello che stava accadendo in Italia e che comunque sarebbe iniziato ad accadere da lì a poco, dagli anni 70 e 80. Quindi ci sono ragioni storiche, poi ci sono ragioni, tu citavi prima il fatto che si dà un assegno di qua, un benefit di là e un bonus di qui. Questo è un po' tipico di tutta la politica italiana, di tutta la politica economica e welfaristica italiana in tanti campi, cioè l'idea che non ci sia tanto una visione di lungo termine, e figuriamoci quanto questa invece possa servire specialmente in campo demografico, in cui i risultati della politica si valutano non nell'anno prossimo nel PIL o nel numero di cassa integrati in più o in meno, ma si valutano a 5, 10, 15 anni. Quindi c'è anche un problema di visione, direi, di lungo termine e di instabilità perenne nel nostro dibattito politico. Sì, che ha a che fare con questo, lo citavi giustamente, ha a che fare con la politica economica italiana. Prendiamo anche il tema degli incentivi alle imprese, sui quali si si pensa ad un riordino da anni, ormai se ne ragiona e mai se ne arriva uno. Adesso in Parlamento si sta ragionando sull'assegno unico per mettere insieme tutti questi strumenti. Una pausa e poi torniamo. Mattino. Adriana da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Prego, rapida. Sì, volevo condividere la mia esperienza perché mi sento molto toccata dal tema di oggi. Io sono un avvocato di Firenze, ho 47 anni, ho avuto la prima figlia a più di 40 anni. Me ne sono entrambe, la seconda a 44 anni, con molta fatica affronto la sfida quotidiana di mettere insieme un lavoro impegnativo, due bambine da seguire e riesco a portare a termine, forse a vincere, ma quasi sempre un pareggio, la sfida quotidiana grazie ai nonni, certo. Altrimenti proprio non ce la farei. E con ciò ho comunque dovuto ridurre molto il lavoro e rinunciare a molti aspetti della vita professionale che non ecco, non lei ha avuto figli a 40 anni perché prima ha detto cerco di portarmi avanti con la mia carriera professionale. Esatto, ecco. Laurea, master e quant'altro. E quindi ma se le avessero detto guarda cara avvocato, la tua carriera non avrà alcun rallentamento se tu fai il tuo primo figlio a 34-35 anni invece che a 40, lei l'avrebbe fatto. Ma assolutamente, assolutamente questo è il problema. Sì. Ci sono anche, ho avuto anche delle difficoltà personali, insomma non sempre la natura risponde in modo adeguato alle richieste che si fanno, però a prescindere da questo sicuramente ci sarebbero state delle decisioni maturate in modo diverso. A proposito della natura, bisogna anche, perché stiamo dando dei dati, bisogna darli, ecco, le nascite, circa un quinto di bimbi nati nel 2019 a madre straniera e tra queste nascite, su un totale di 85.000, 63.000 sono le nascite prodotte con partner straniero. Quindi è come se la natalità, anche come dire, sotto il profilo del padre, dipendesse molto da persone che arrivano da fuori Italia. Lo dico perché così abbiamo un quadro anche non solo delle cifre ma anche del una dettaglio, mappatura. Di qualche dettaglio delle cifre. Paola di Nicola. Su questa cosa bisogna fare una precisazione. Sì, prego. I stranieri fanno più figli perché sono più giovani di noi. Questo discorso fanno la quantità spropositata di figli. Sono più giovani di noi. Giustamente dicevo l'ascoltatore, quando si esce sono bassissime le probabilità di incontrare delle persone giovani nelle nostre strade delle città. Io a Verona, che abito in un quartiere cosiddetto multietnico, quando esco la mattina è pieno di bambini, anziani che vanno a fare la spesa e giovani donne con passeggini o anche giovani papà che vanno a portare i bimbi. E infatti i francesi hanno i passeggini e le mamme e i papà che li spingono di 30 anni. Perché? Perché la loro politica demografica è cominciata, come dicevamo, negli anni 50. Di Nicola... Mi aiuta a capire se ci sono anche delle ragioni culturali, per al di là delle ragioni sostanziali e pratiche, no? Quelle che abbiamo raccontato, un sistema di servizi che non ti aiuta, appunto un welfare che non ti aiuta, le difficoltà ad arrivare per le donne, no? Ad arrivare ad una posizione di carriera che poi ti metta nelle condizioni di fare i figli con una certa serenità. Al di là di questo, ci sono delle ragioni culturali, di Nicola? Ma indubbiamente con l'avvento della società moderna cambia l'importanza e il valore che viene attribuito. In fondo, anche se ce lo diciamo, ma un tempo i figli erano una forza lavoro, è vero, erano una forza lavoro, e quindi in un modo o nell'altro avere dei figli significava avere delle risorse. Non erano che cambiano le condizioni di lavoro anche, e cambiano anche le condizioni di vita, fare un figlio diventa un investimento che la famiglia fa sul suo futuro, quindi investe sulla scolarizzazione dei figli, e quindi è facile ragionare in questi termini. Una delle condizioni perché io possa dare ai miei figli migliori opportunità di vita, migliori delle mie, è ridurre il numero. E non ci vuole una laurea per fare un discorso di questo genere. E quindi pian piano c'è questa diminuzione. D'altra parte è vero che le politiche demografiche fatte dal fascismo non sono state ben accolte. Tenete presente che se andiamo a guardare i tassi di fecondità in Italia dagli inizi degli anni 20 fino agli attualmente, nonostante le politiche pronatalistiche del fascismo, i tassi di fecondità diminuiscono regolarmente e sistematicamente. E questo perché effettivamente ci sono dei problemi anche di tipo culturale sull'importanza e sul valore attribuito ai figli. Chiudiamo una telefonata, Maria. Sentiamo, ti va? Elisabetta da Roma. Elisabetta, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io sono una nonna che aiuta tantissimo le proprie figlie, laureate, con ottimi lavori, eccetera. Ma una cosa è certa, a Roma la vita è pesantissima, non è una città a misura d'uomo, dove uno fa i figli e con serenità. Tutto è complicato, da muoversi, quindi servizi che non esistono, la scuola complicatissima, la scuola pubblica continuamente fa assemblee, cose, questi figli stanno allo sbando. Come si fa a fare i figli a Roma? Ma lei ha perfettamente ragione, infatti le trentenni, cito peraltro un libro che è uscito qualche tempo fa a firma di una collega che era proprio su questo, su non chiedetemelo più, era un libro che raccontava, non chiedetemi più perché non faccio figli, perché non voglio farli, è faticoso. E cara nonna, lei dice qualcosa che non abbiamo potuto accennare, perché un genitore rimane genitore per sempre, non è soltanto una questione di asilo nido, è che un genitore oggi, quando il figlio diventa adolescente, sì, si trova di fronte a una marea di problemi che affronta a mani nude da solo. E poi c'è anche, chiudo qua, un problema di cultura aziendale imprenditoriale, ci scrive un'ascoltatrice, una questione culturale di volontà della società, ho 36 anni, una laurea alla Bocconi, 4 figli e il mio capo mi stima per questo e non sono tutti così. Questo è un elemento fondamentale. Grazie Paola Di Nicola, grazie Marco Valerio Loprete. Cara Maria, ci sentiamo domani alle 8:20. Ci sentiamo domani, ciao a tutti. Filippo Regi regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in redazione, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo i nostri autori. Noi invece ci risentiamo domani mattina alle 6:30. Ciao.